Ma tu guarda qui che casa di pane e di miele, la casa di tutto e di niente che tiriamo su io e te. Un giorno alla fine di aprile, aprile un po' prima di maggio, ma chi me lo dà il coraggio di strapparmi via di qui? Ma io sono un po' marinaio, la musica è il mio passaporto, l'approcci dal mare morto, io devo viaggiare. Ma io sono un po' cosmonauta che va dove soffia il vento, però nel mio appartamento io voglio tornare. Le strade portano a Roma, ma Roma è assai lontana, e se perdo la mia poltrona, che vuoi che mi porti mai? Ma tu guarda qui che casa, che casa, che casa divina, mi affaccio dalla cucina e ti sento cantare, cantare a dispetto di tutto, cantare di contrabbando, però chissà dove e quando io potrò tornare. Marinaio, la musica è il mio passaporto, d'approcci dal mare morto io devo viaggiare. Ma io sono un po' cosmonauta che va dove soffia il vento, però nel mio appartamento io voglio tornare. Che va piano va lontano e lontano è una chimera, però quando viene sera il mio pensiero vola qui. Ma tu guarda qui che casa, che cosa querida, che io pianga, che io rida, è il posto per me. Ma tu guarda qui che casa di noce moscata, accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare.